Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. La paranoia, bevi solamente latte di soia, segui solo il calendario dei Maya, poi la Bibbia e il profeta Isaia, la gelosia, la paranoia, il fastidio per il cane che abbaia, per la vicina che geme e che implora, che si capiva che non era una suora, e ancora, ancora disinfetta i cuscini, barrichiamo i confini, stiamo attenti agli alieni, ti ricordi Star Trek? Respirare dice che ci fa male, ti consiglio io una cosa da fare, la paranoia, stasera lascia la casa, metti sulla prima cosa che capita, il resto ci penso io, la paranoia, stasera chiudi la dentro l'armadio, alza il volume alla radio, fai un coro da stadio, togli tutti i vestiti e sorridi, ci penso io. La paranoia si è piccante ma soltanto abanero, sei biologico a chilometro zero, poi non vivi senza l'olio che need il venerdì, e la paranoia di restare chiusa nell'ascensore della fine del sistema solare, l'olio di palma come Belzebub, puoi fare di più. Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururo, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a scogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto un po' già visto, quello stai sicura non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai, perché non finirà, non finirà mai. Facciamo finta che ci conosciamo da una vita intera, oppure che domani è il primo giorno d'estate, do i capelli lunghi oltre le spalle e tu mi baci sul collo ed io ti fermo la mano, che da lontano dai ci guarderanno tutti, se non è vero che la tua schiena è un quadro ed io disegno distratto e tu sorridi piano e poi ti butti nell'acqua ed io ti seguo al largo che da lontano sai ci cercheranno tutti, ci cercheranno tutti. Sabato. Tra partiti liquidi, neuropolitici, campagne di marketing su network sociali, con simboli orpelli ormai seppelliti, da nuove rotonde e ipermercati, locali che chiudono, parrocchie che esplodono, proliferano e preparano i figli dei compagni subliminali, crociati in missione nei consigli comunali, tra appalti strabici, selvagge frontiere del cantiere, nelle acque filtrate, impisciate private, nelle cooperative, ingorde affamate, negli enti quotati, in borse pilate, infinite fusioni, nei termovalorizzatori che sorgono a fianco delle porcilaie. Ci è rimasto soltanto il ponte di Calatrava nel cielo della nazione padana, e ci è rimasto soltanto il ponte di Calatrava che si inarca obliquo sulla linea emiliana. Nelle zone industriali, nelle tangenziali, tra deserti esistenziali, nei tagli chirurgici di treni veloci come bisturi, nelle città fortificate, spiate da videocamere, ostili ed oscene, con una notte bianca e 100 notti nere, tra feste commerciali, PR come consulenti culturali, tra uomini che dicono sempre di sì, tra vernici e meeting sulle solitudini, e ci è rimasto soltanto il ponte di Calatrava che declina, che frana sulla parabola umana, e ci è rimasto soltanto

condividiamo lo spazio ed il tempo. E ti rivelo da sempre il mio volto, ma nonostante i difetti mi hai colto. Sei irresistibile, con quel vestito blu e la pelle scura. Mi attrai con i tuoi sguardi gravitazionali. Io e te, alle stesse distanze di sempre. Io e te, ci inseguiamo in un moto costante. Io e te. In circostanze di buio profondo, tu hai un cuore caldo in un guscio di noce, ed hai la vita in un cosmo che tace. Sei così sfuggente, quell'aura misteriosa cela la tua assenza, ma riesco a decifrare ogni tua frequenza. Io e te, alle stesse distanze di sempre. Io e te, ci inseguiamo in un moto costante. Io e te. Eterno. Yeah. girls on the dance floor freaking insane. You're a super. Oh baby, there you are. Girl, go and get it like a superstar. Girl, go and do it for the broken heart. Cause baby, you're a superstar. Superstar. Oh, there you are. Girl, go ahead and show them all your stars. Girl, go and show it, take me who you are. First time we tried to contact the fire radio, no response. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Pagherei un milione anche. ehi, sono un pezzo grosso come Big Fish, ehi, quando entro nel posto fra per fare bis, ehi, per killare il beat, per baciare i G's, per tornare a casa con una baba bitch. Ti assicuro siamo seri, siamo nei quartieri, la mia voce è vera anche se scelta uno stereo. Tu guardi troppe serie, loro il mio marciapiede. Baci esagerati a 18 carati, per i bling bling mi dici di sì, ti riempi quella borsa di reading bling. Cosa te ne fai di tutto questo oro? Per te io darei anche l'ultima Marlboro. Suolo in zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, zona 9. Milano amore, ricoprimi di oro. Vieni via con me, sai che sono un ragazzo d'oro. Quando tocco quello che io tocco sai diventare. Bellissima, bellissima, tu che sei iconica, iconica, ma dimmi anche tu hai fatto la cattolica. Maledetto maggio, io senza di te non ce la faccio. Qui è sempre, ma sempre più caldo. Tu eri felice, ma chi me lo dice se ci rivedremo più? Magari una sera quando suona Becky Go e io ti manco come manchi tu. Ma non ce la faccio, maledetto maggio. Vuoi sentire con me un po' di techno se c'è, mentre siamo io e te in due su una moto, con alle spalle il passato. Tu che sei iconica, iconica, ma dimmi anche tu hai fatto la cattolica. Maledetto maggio, io senza di te non ce la faccio. Qui è sempre, ma sempre più caldo. Tu eri felice, ma chi me lo dice se ci rivedremo più? Magari una sera quando suona Becky Go e io ti manco come manchi tu. Ma non ce la faccio, maledetto maggio. Più caldo, maledetto maggio. Ti viene la R tedesca, quando comincia a paranoia in fondo a guardarla bene, sembra un giorno sbagliato, sembra il giorno di un altro. Annalisa dice che è normale fare l'amore con il temporale. Annalisa dice che è sociale farsi le foto sotto le coperte. Lo so, incredibile, è imprevedibile, non è difficile se vuoi. Annalisa dice che è importante restare a galla mentre il mondo frigge. Annalisa dice che è invitante mangiare sushi quando si è in mutande. Ma sia incredibile, così appetibile e così facile se vuoi. E poi lo so che tanto tu la troverai, la strada al sole, eccolo qua. Lo vedi il faro che ci guida nell'oscurità. E tu lo sai che tanto poi io la vedrò, la stella al buio, guarda giù. Siamo senza peso e vogliamo nella gravità. Annalisa dice che è normale spogliarsi quando c'è il maestrale. Annalisa dice che è vitale correre nudi fra le Alpi e le Ande. Ma se è possibile, son raggiungibili, non è difficile se vuoi. Annalisa dice che è invitante fare yoga con le porte aperte. Annalisa dice che è importante mangiare i crudi quando si è in vacanza. Lo sai, incredibile, è inarrestabile, è così facile se vuoi. E poi lo so che tanto tu la troverai, la strada al sole, eccolo qua. Lo vedi il faro che ci guida nell'oscurità. E tu lo sai che tanto poi io la vedrò, la stella al buio, guarda giù. Siamo senza peso e vogliamo nella gravità. Ma sia incredibile, non è difficile, è così facile se vuoi. Lo so che tanto tu la troverai, la strada al sole, eccolo qua. Lo vedi il faro che ci guida nell'oscurità. E tu lo sai che tanto poi io la vedrò, la stella al buio, guarda giù. Sia senza peso e vogliamo nella gravità. E poi lo so che tanto tu la troverai, la strada al sole, eccolo qua. Lo vedi il faro che ci guida nell'oscurità. E tu lo sai che tanto poi io la vedrò, la stella al buio, guarda giù. Sia senza peso e vogliamo nella gravità. Gente che corre intorno all'arena, il cuore che accelera, la vita che frena. Conciliazione, un minuto a Pagano. Irene mi ama, mi tiene per mano. Nessuna deriva spirituale, nessun tatuaggio, un peccato mortale. Ma 10.000 un metro in circonvallazione, tra un nolo, isola, tortone, il fuori salone. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale. Esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno. Cercare l'amore, trovare un film porno. E convertirsi al futuro, alla cucina vegana. Ai grattacieli, alle wick, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero. Il cielo di ottobre è un grigio sincero. Circoscrizione di sinistra, ma anche il tuo vicino di casa un apprendista fascista. Che qui la socialità è un esercizio di stile, fra brera ed il buio un confine sottile. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale. Esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno. Cercare l'amore, trovare un film porno. Al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle wick, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero. Il cielo di ottobre è un grigio sincero. La prima regola a Milano, non c'è un posto migliore di Milano. La seconda regola a Milano, se qualcuno grida basta, la terza regola, fattura, spendi, vai di fretta. La quarta, se hai paura di essere inadatto, l'ipotesi è corretta. La quinta regola, dimmi alla fine cosa hai trovato. Ora che hai pensato che qui è tutto sbagliato. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale. Esisto solo quando sto male, se devo lottare. dovrai essere forte e non aver paura. Finché a tutta questa guerra non si trova cura, dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace. Ho trovato su un tuo vecchio quaderno un cuore disegnato con sopra la scritta pace. Anche se questo silenzio fa più rumore di un tuono, è come un senso di colpa che sta chiedendo perdono. Anche se questo silenzio ti fa gelare la pelle, tu tieni dritta la rotta, ti aiuteranno le stelle. Fuori il mondo è sempre più feroce, urla e fai sentire forte la tua voce. Io ti starò a guardare dalla giusta distanza, mentre diventi grande come una speranza. Urla quando non vogliono ascoltarti, ma ricorda, non regalargli i tuoi pianti. Quando ti sentirai sola io sarò al tuo fianco. Non ci sarà più nero, non ci sarà più bianco. In mezzo a mille sfumature tu risplenderai. Lotterò per farti essere soltanto quello che vorrai. Anche lontano, quando hai bisogno chiudi gli occhi e troverai sempre la mia mano. Fuori il mondo è sempre più feroce, urla e fai sentire forte la tua voce. Io ti starò a guardare dalla giusta distanza, mentre diventi grande come una speranza. Devi resistere al vento che respirerai. Inspira, respira, conta fino a 10 e vola. L'ombra del tuo cambiamento la supererai. Uccideremo tutti i mostri insieme, non sarai sola. Fuori il mondo è sempre più feroce, urla e fai sentire forte la tua voce. Io ti starò a guardare dalla giusta distanza, mentre diventi grande come una speranza. Fuori il mondo è sempre più veloce, corri e non lasciare indietro la tua voce. Io ti starò sempre accanto anche quando non mi vedi. Tu cammina a testa alta, che da lontano magari mi vedi, che da lontano. Come una speranza. Avete ascoltato il Sì Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Bam bam bam bam, hashire, bam bam bam bam, big shooter, kaze yori hayai, build up, bam bam bam bam, build up, bam bam bam bam, bara bara bam bam bam, bam bam bam bam bam bam bam bam, o chikara da.